Un salutone a tutte e tutti, quinta puntata dei passaggi a Nord-Ovest, come sempre tutti i lunedì alle 13.30 e in replica i giorni successivi fino al venerdì sempre alle 13.30. Alcuni giorni fa siamo andati a trovare alcuni cittadini della Piana Fiorentina che da anni si stanno battendo contro l'apertura dell'inceneritore a Case Passerini e contro la prevista ostruzione del nuovo aeroporto di Peretola. Abbiamo intervistato uno di loro. Una lunga intervista che abbiamo suddiviso in tre parti e che proporremo in ordine cronologico su Passaggio a Nord-Ovest. Vi facciamo ascoltare la prima parte. Vi ricordiamo il sito per la diretta streaming www.wombat.noblogs.org, da cui potete inoltre ascoltare o scaricare i podcast di Passaggio a Nord-Ovest e di tutte le altre trasmissioni. Siamo qui a un'iniziativa di sostegno al presidio No Inceneritore Aeroporto, No Inceneritore No Aeroporto, e sentiamo cosa ha da dirci Guido rispetto a questa iniziativa e quindi perché il sostegno al presidio No Inceneritore No Aeroporto. Sì, allora la situazione del presidio è che alcuni mesi fa la Guardia Forestale ha messo i sigilli e ha decretato il sequestro amministrativo e il sequestro giudiziario del presidio in quanto struttura abusiva. Ora, questa cosa chiaramente noi sappiamo che è stata spinta e voluta fortemente dal Partito Democratico, in particolare da quello di Sesto. Noi sappiamo che ci hanno provato varie volte, rivolgendosi al Comune di Sesto, rivolgendosi alla Questura. Alla fine hanno trovato come sponda questo della Guardia Forestale, probabilmente avranno trovato qualche ufficiale che è legato a loro o che gli doveva forse qualche scambio di favori, e sono riusciti ad ottenere questa sanzione della costruzione del presidio. La cosa per noi ovviamente è assurda e inaccettabile da ogni punto di vista, perché anche se si considera l'aspetto strettamente legale, certo la struttura può anche essere considerata abusiva, ma la cosa assurda è che in tutta quella stessa area in cui noi abbiamo insediato il presidio esistono da anni un sacco di discariche abusive con rifiuti anche pericolosi. Noi abbiamo trovato amianto, resti di televisori, eccetera. E il Partito Democratico o la Guardia Forestale che da anni gestiscono e amministrano quel territorio non si sono assolutamente mai preoccupati in quel caso delle discariche abusive di far rispettare la legalità. L'altro aspetto ancora più importante è che per noi il discorso formale della legalità non è importante, quanto è importante un discorso di legittimità, per cui può darsi anche che la struttura del presidio sia formalmente fuori dalle regole, però per noi è legittima perché quello è uno strumento che gli abitanti della Piana si sono dati per riappropriarsi di quel territorio, per prendersi cura e per valorizzare quel territorio. D'altro canto, due opere come l'inceneritore o come il nuovo aeroporto potranno anche diventare perfettamente legali da un punto di vista delle norme, ma per noi rimarranno comunque due opere illegittime alle quali cercheremo di opporci. Ecco, per concludere su questo discorso del presidio. Hai un po' anticipato la domanda successiva, e cioè perché il presidio? Sì, allora il presidio noi l'abbiamo insediato a maggio, fine maggio del 2016, Il 29 maggio precisamente è stata la prima giornata, la prima grande iniziativa che si è svolta al presidio. Naturalmente prima c'erano state diversi mesi, settimane di lavori, di preparazione, di pulizia dei terreni, eccetera. E io direi che diciamo, essenzialmente ha è uno strumento diciamo, che risponde a tre esigenze, a tre funzioni. La prima è quella che noi abbiamo indicato fin dall'inizio, di contrapporsi concretamente alla possibilità di inizio dei lavori e dei cantieri riguardo in particolare l'inceneritore, che era una procedura diciamo in uno stadio più avanzato, ma poi anche la nuova pista dell'aeroporto. Infatti il presidio si trova sui terreni sui quali dovrebbe passare la nuova pista dell'aeroporto e si trova a poche centinaia di metri dalle strade di accesso all'area in cui vorrebbero costruire l'inceneritore. Quindi per noi ha avuto il significato di sia un'indicazione politica che uno strumento pratico di dire: se provate ad aprire i cantieri, se provate ad iniziare i lavori, noi ci opporremo, noi ve lo impediremo concretamente presidiando i terreni. Poi c'è un altro aspetto altrettanto importante, è l'indicazione che dicevo anche prima, cioè gli abitanti si riappropriano di quel territorio e soprattutto si riappropriano della possibilità di decidere su quel territorio e sul tipo di sviluppo che deve avere, perché la lotta che facciamo non è soltanto per fermare queste due opere, ma anche per affermare un altro uso di un territorio come quello della Piana, che è già pesantemente inquinato, è già stato pesantemente degradato e che ha bisogno invece di essere rivalutato e risanato. Allora noi diciamo che in quell'area lì, che è rimasto uno dei pochi vuoti in tutta l'area metropolitana fiorentina, in quell'area lì l'unica opera, l'unico intervento che può rispondere agli interessi collettivi degli abitanti è quello di un grande parco della Piana, sia inteso come parco agricolo, come parco forestale, come parco metropolitano. Quindi il presidio ha anche questo senso, cioè dare l'indicazione di quali sono gli interessi degli abitanti su quel territorio e cominciare a metterli in pratica. E poi c'è stato un altro aspetto anche molto importante, è il fatto che realtà e persone attive in diversi comitati che hanno lavorato insieme sia nella preparazione del presidio sia poi nelle giornate in cui si sono svolte le tante iniziative che abbiamo fatto durante l'estate e l'autunno, questo lavorare insieme, vivere insieme quelle giornate è stato anche un'occasione importante per conoscersi meglio appunto tra attivisti di comitati diversi, per creare un clima di fiducia, di collaborazione che ovviamente poi in funzione della lotta che stiamo portando avanti è estremamente importante. Per chi non ha Google Map o comunque dove si trova precisamente, come facciamo ad arrivare al presidio e anche quali sono state le iniziative nello specifico le più importanti magari da quando è nato, cioè dall'anno scorso, oramai quasi un anno ad ora. Ho visto che sono cresciuti un po' di alberi proprio nelle vicinanze, insomma, al presidio, ecco. Quindi dove si trova e quali sono state nel concreto le iniziative fatte al presidio in quest'ultimo, da quando è nato? Allora, dove si trova? Precisamente lungo via dello Smannoro, che è quella strada che collega Sesto Fiorentino appunto allo Smannoro e lungo la quale si trova il polo scientifico dell'università, e si trova diciamo partendo da Sesto Fiorentino e andando verso lo Smannoro, si trova sul lato destro appena più avanti rispetto al benzinaio che è lungo quella strada. E si trova praticamente nel primo tratto di una pista ciclabile che di fatto nel corso degli anni è stata sempre molto trascurata dalle amministrazioni di Sesto Fiorentino, appunto quello cui si accennava prima, il discorso che è stato permesso di creare tutta una serie di discariche abusive, non è stata fatta attenzione alla manutenzione e anche soltanto a valorizzarla e a farla conoscere quella pista. quindi comunque molto facilmente raggiungibile e visibile anche dalla strada, perché comunque sono state realizzate delle scritte, sono stati affissi degli striscioni, quindi non c'è rischio di non vederlo per chi voglia passare quando ci sono le iniziative o semplicemente passare a vederlo. Per quanto riguarda alcune delle iniziative che sono state fatte in questi mesi, e ne sono state fatte tante e di diversa natura, però una delle cose, appunto, tu accennavi agli alberi, più importante, che si riallaccia a quello che dicevamo prima, il discorso di valorizzare quel territorio e di orientare lo sviluppo di quel territorio in un senso esattamente opposto a quello che vorrebbero fare con le due grandi opere. Tra le tante iniziative abbiamo fin dalla prima occasione del 29 maggio e poi di nuovo più avanti, abbiamo piantato tutta una serie di alberi, di piante. Siamo ormai a oltre un centinaio, proprio come indicazione di primo inizio, primo sviluppo del Parco della Piana, quel parco di cui tante amministrazioni anche a livello regionale si sono riempite la bocca nel corso degli anni e che in realtà non hanno nessuna intenzione di realizzare. Appunto, ripeto, l'indicazione forte che noi diamo: gli abitanti dal basso, in modo autogestito, cominciano a creare quel parco che risponde, poi è l'unica opera che risponde effettivamente alle esigenze collettive in quel contesto lì. Hai parlato come data d'inizio del presidio, i giorni successivi, la settimana successiva, un grande corteo contro l'inceneritore che a sua volta è stato preceduto da svariate iniziative che si sono susseguite nel tempo, negli ultimi anni appunto, e nello spazio, cioè nella piana. Ci puoi dire qualcosa a proposito? Chiaramente il presidio è frutto, diciamo, del lavoro sul territorio e appunto di tutte queste iniziative. Cosa ci può dire di più rispetto a queste iniziative, a questo lavoro sul territorio? Sì, allora aggiungo un'ultima cosa, o comunque un'altra cosa sul presidio, ricollegandomi a quello che abbiamo detto proprio all'inizio, cioè il problema dei sigilli e del sequestro giudiziario. Allora, noi abbiamo, dopo aver trovato questi sigilli, iniziato una campagna di firme che si chiama Il Presidio Sono Anch'io e che è rivolta a tutti gli abitanti della Piana, e questa, appunto, in cui siamo, è una delle iniziative finalizzate anche a promuovere questa campagna. Noi raccogliamo delle firme sotto un appello molto semplice che dice: difendere la Piana, difendere il territorio, voler costruire il Parco della Piana è abusivo, è abusivismo, bene, siamo tutti abusivi. Quindi è importante questa campagna a sostegno del presidio e contro i sigilli. È possibile sulla pagina Facebook, per esempio, dell'Assemblea per la Piana contro le nocività, trovare tutto un elenco di attività commerciali sia a Campi, sia a Sesto, sia a Firenze, nelle quali è possibile andare a firmare, oltre che ovviamente è sempre possibile firmare in tutte le iniziative che facciamo, sia al presidio che a giro. Oltre, sempre per chiudere su questa questione dei sigilli, oltre alla questione firme, ovviamente i sigilli non ci hanno impedito e non ci impediscono di continuare a usare quel presidio, a farci delle iniziative e a usare quella struttura. Per cui certo, formalmente resta sotto sequestro, ma di fatto questo sequestro ovviamente come movimento, come abitanti in lotta, non ci ha impedito di continuare a utilizzare questo strumento. Per quanto riguarda, sì, ritorniamo alla domanda: quali sono state le iniziative sia dal punto di vista dei cortei, delle manifestazioni, ma anche del lavoro sul territorio, volantinaggi, controinformazione, che hanno preceduto il presidio? Perché il presidio, diciamo, è in ordine di tempo è avvenuto dopo manifestazioni che hanno coinvolto decine di migliaia di persone, ecco. Sì, infatti diciamo che il presidio è stato per certi aspetti un punto di arrivo, non un punto finale ovviamente di questa lotta, però un punto di arrivo di un percorso che, di mobilitazione che era durato alcuni anni. Si può dire che dopo naturalmente la lotta in particolare contro l'inceneritore di Case Passerini va avanti da 15 o 20 anni, però ovviamente ha avuto nel corso del tempo delle fasi anche di stallo. Allora si può dire che dopo un periodo di inattività e di stallo c'è stata una ripresa dell'iniziativa su questi temi dell'inceneritore in generale, delle nocività nella piana, a partire dal 2013. Un'iniziativa che è stata presa in particolare da una delle realtà, uno dei comitati che compongono questo movimento, che è l'Assemblea per la Piana contro le nocività, che ha iniziato a riprendere un lavoro di controinformazione, di presenza sul territorio, in particolare inizialmente a Campi Bisenzio, un lavoro di contatto con la popolazione, di sensibilizzazione, anche fatto con strumenti vari, anche strumenti che forse possono essere abitualmente un po' estranei a certi percorsi delle realtà auto-organizzate, strumenti che si possono per certi aspetti considerare politicamente fra virgolette arretrati. Faccio un esempio: raccogliere le firme per una delibera di iniziativa popolare da far votare al Consiglio Comunale di Campi, ma strumenti che secondo me sono stati invece particolarmente utili come mezzo per entrare in un rapporto forte con gli abitanti. Poi la cosa che sicuramente nello sviluppo dell'iniziativa a Campi, ma anche negli altri territori, io credo che un fattore estremamente importante che un po' ha permesso di fare un salto di qualità e di quantità a questa mobilitazione, a questo movimento, è stato il fatto che si sono attivate delle forze anche nuove, nel senso che mentre l'Assemblea per la Piana contro le nocività in buona parte era composta da attivisti già legati appunto a dei percorsi di movimento e di auto-organizzazione come il cantiere sociale Camillo Senfuegos di Campi o il centro sociale Next Emerson a Firenze e via dicendo, in particolare invece l'elemento nuovo e che in qualche modo ha fatto appunto fare quel salto di qualità e di quantità a questa mobilitazione è che si sono attivate delle soggettività e delle forze nuove. In particolare penso a un'esperienza come il Comitato No Aeroporto di Campi Bisenzio e forse ancora di più a un'esperienza come quella delle Mamme No Inceneritore, quindi dei comitati nuovi nei quali cominciano a partecipare come attivisti e come militanti delle persone che magari fino a prima di questa esperienza e di questa lotta non erano appunto impegnate, almeno non in modo diretto, nelle mobilitazioni, nelle lotte o nel sociale. E questo fattore ha dato alla mobilitazione delle forze molto, molto grandi che hanno poi permesso e che anche in parte spiegano i risultati di partecipazione che abbiamo ottenuto e in particolare quel risultato che io considero clamoroso e per certi aspetti storico, cioè la manifestazione, il corteo del 14 maggio, perché un corteo di circa 20.000 persone completamente auto-organizzato, senza avere dietro le strutture classiche dei sindacati, dei partiti o delle grandi associazioni, per Firenze in un certo senso è un evento storico. Quindi una componente è quella che partecipa, che si mobilita in questa lotta estremamente popolare, una componente si auto-organizza dal basso e che acquisisce coscienza e poi la ridiffonde, acquisisce scienze e saperi rispetto alle pericolosità di queste due grandi opere. Finisce qui la prima parte dell'intervista sulle ragioni del no all'aeroporto, no inceneritore, e finisce qui anche Passaggi a Nord-Ovest. Vi ricordiamo che oltre la diretta del lunedì alle 13.30, Passaggi a Nord-Ovest va in replica dal martedì al venerdì, sempre alle 13.30, sempre su Radio Wombat. Il sito è www.wombat.noblogs.org. Ciao ciao.